Spider Pig, Spider Pig does whatever a Spider Pig does. Na na na, in a web. No, he can't, 'cause he's a pig. Oh, oh, he's a Spider Pig. He's a Spider Pig. He's a Spider Pig. Chiedo asilo. Con la presente ti ringrazio per aver fatto parte nella stagione sportiva 2011-2012 della nostra società. Purtroppo siamo costretti a comunicarti che per la prossima stagione sportiva 2012-2013 non siamo in grado di darti la possibilità di continuare con noi la tua attività sportiva. Nell'augurarti le migliori fortune sportive, colgo l'occasione per porgerti i miei più cordiali saluti. Firmato Spartaco Ventura, presidente del Calcio San Giovanni di Trieste. Questa è una lettera che un bambino di 8 anni che giocava in questa squadra di Pulcini di Trieste ha ricevuto pochi giorni fa. Ha ricevuto questa lettera. Calcio, Pulcini. Vabbè, però scusa, il bambino, cioè, magari non era molto promettente e invece di tenerlo lì come si fa di solito e poi ci avrebbe pensato lui a smettere, l'hanno licenziato con una lettera formale. Tu pensa che roba avere 8 anni e leggere con la presente ti ringraziamo nell'augurarti le migliori fortune sportive e cordiali saluti. Uno ma shock. Si sa, anche nei campionati dei bambini c'è un eccesso di agonismo. Direi di sì, in questo caso poi veramente. Si vede che Spartaco Ventura non sa che per un bambino di 8 anni il bello è proprio allenarsi con gli amici. Vabbè, il calcio anche, vabbè, però pazienza, immagina però, sto povero bambino invece cosa fa? Adesso starà a casa da solo, esatto, con le tapparelle abbassate, diventerà un ikikomori. Allora, signor Ventura, vuol forse che Trieste si trasformi nella capitale degli ikikomori? Vidi puntata di lunedì. Vedi puntata di lunedì. Ormai si fa come fabbriatore, no? Sei fuori. Qui c'è la letterina, ma il concetto è lo stesso. Un tempo a questo bambino avrebbero dato un'alternativa, quella dell'ippica, si diceva, no? Datti all'ippica magari va meglio. Invece adesso nemmeno l'ippica, nemmeno un consiglio, un aiuto, niente, dai. Vabbè, ma datti all'ippica era una presa per il culo, Drago. Mica era un'alternativa offerta sul serio. Scusa. No, perché visto che a me l'hanno detto tante volte da piccolo, pensavo che fosse davvero. Pensavi male, è un modo diverso per dire cordiali saluti, con la presente è licenziato. Ma pensa, io quando provavo a giocare a calcio, pallavolo, basket, qualunque sport, sempre, tutte le volte mi davano questo consiglio dell'ippica. Solo che essendo uno sport carissimo, i miei mi dicevano: se è l'ippica, comincia a tagliare l'erba in giardino e tutto finiva lì. Anzi. Cosa anzi? Se i genitori di questo bambino di 8 anni licenziato non sanno cosa fargli fare, io il giardino ce l'ho sempre, se vuole. Pop goes the weasel, pop pop pop goes the weasel, pop pop pop goes the weasel, pop goes the weasel. Chiedo asilo! E ora bambini, ricreazione! Permesso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma scusi, questa è la piadineria? Piadineria, sì. Piadineria. Ma lei non è quello della pizza? Della pizza, i peperoni? No. Lei, no. Sì, perché. No, somiglio. Amico di mio fratello, forse. No, somiglio. Comunque mi somigliate, sì. Beh, qui c'è. Biadine, qua prende biadine. Qui posso vedere, ecco lì c'è il menù, guardo il menù che oggi c'ho tempo. Non c'ho fretta oggi, c'è sciopero. Sì, con calma amico, prendi allora. Quello che ti piace, se ti piace prendi, non preoccupi amico. Allora, ce n'è una che già mi attizza. Allora, allora prenderei una tempesta di fuoco. Quella lì, quella con praga, salsa, brì, fontina, tabasco, insalata e funghi. Quella lì? Da me! Tempesta di fuoco, Kiri, ragazzo! Ti piace? È avanzato? Non ho finito? Perché è finito l'insalata, amico. Vabbè, me lo faccia senza insalata. Va bene senza insalata, va bene. Allora no, mi faccia no, tempesta no. di fuoco senza insalata. No, paese mio tutto fatto completo, amico. Tutto completo, sì, se no, no, se fa altro. Vabbè, ma a me piace così, Tutto bene, intero, tutto intero. No. E non si può avere. Pagando la stessa cifra, cioè. No, completo. Completo. Non completo niente. Completo di tutto, sì. Però finito e non c'è. Allora mi faccia. Lì, il turbamento. Mi faccia il turbamento. Quella lì. Quella col crudo di Parma. Pancetta accotolata. Tacchino. Cotechino. Piselli. Piselli. Mi faccia quello lì. E mi piace. va bene quello lì, va bene il turbamento. Crudo Piselli è... Crudo Piselli? L'ho detto, coppa con la... Crudo Piselli è... Pancetta cotolata? Sì. Tacchino? Cotechino? No! Cotechino finito! Cotechino finito, finito! Vabbè, allora mi mette, faccio così, mi mette due fette di salame, salame Milano. Sabe, no, no. Normale, al posto del cotechino. No, turbamento funziona solo e tutto completo, anche lui. Finisce, me... finisce completo. Ma no, a me mi turba anche il salame, cioè va... mi va bene a me. Salame, ah, un'altra piedina, amico. Un'altra ancora. Vabbè, non si può. No, non si può perché o è completo o non posso. Vabbè, allora faccia così. Mi dia orizzonte perduto. Mi, va... mi dia quella lì, l'orizzonte perduto. Orizzonte perduto e solo piedina, amico. E fini... lì c'è, c'è quella lì. No, lì. Solo biadina con dentro niente, capito? Che no, non piace noi. Biadina con solo farina. Biadina basta, scaldata, dato. Focaccia, una piadina senza niente dentro? Sì, però senza sale perché fa stato d'Egitto, capito? No, ma a parte il sale, qui, se è vuota non mi interessa. Allora, senta, mi faccia così. Mi dai la... quella lì, ghetto. Piadina ghetto. Mi fa quella lì. Ghetto quello con carne di maiale che non piace? Con carne di maiale, col montone... agnello, agnellino, agnello. Quello ripieno e quello con le uova di quaglia. Con salsa di uova, con salsa di uova pure. Quello lì, con le salsa, quello sì, lì, e mi dia quello lì. È finito salsa di uovo, amico, finito. Portato via come sta, è venuto qua uno, tu portato uno solo, avanzato, portato via. Come finito uno solo? Tu, uno finito, perché piadina solo una per ogni tipo, quel, capito? Queste qui sono, alla fine sono, queste 124 piadine che sono qua nel menù. Sì, sono... sono tutte, cioè... una. Una è una piadina sola. No? Una sola, amico. Quando io faccio tempesta, viene amico, porta via tempesta, tempesta finito. E beh, ma tempesta poi finita. Viene altro. Viene ma qui non dovete cancellare, che io vengo, dico tempesta perfetta e non c'è. È finita, amico, non è che non c'è, finita prima che c'eri tu. Vabbè, allora orari... vabbè, me ne dia una che c'è ancora. Facciamo così, che tagliamo la testa al toro. Per cui ho un'ora di tempo, ma neanche voglio passarlo dentro una piadinaria, no? Quindi. Mi faccia una piadina che ce n'avete ancora una, no? Prenditi qualcosa, muovete, prenditi qualcosa per ragazzo, dai. Prenditi piadina con paparone, portati qui, dai. Porta che il ragazzo c'ha fame, mettiamo tovaglia no, in terra, no. Dai. No, aspetta, scusa, no, volevo parlare... scusi, lei è sicuro che... Vabbè, quella è la mia impressione, ma... No, la piadina, no, pizza e peperoni non... Pizza e peperoni era quel, il suo cugino, no? Se le... sei amico di mio fratello, però, amico, se tu vuoi faccio piadina... No, io... Ma qui è oggi il primo giorno, inaugurazione della piadineria. Bella e pizza io venivo per con la piadina, poco... io preferirei no la pizza io. Biadina con pizza con un poco d'olio, con un poco di paparoni, perfetto, mette no, in terra no. Con un amico, barta giù io Coca-Cola, cantare, ballare, state qua insieme tutto no, qua. No, no, allora lei vabbè, ho il cugino, comunque l'andamento è sempre lo stesso, io vado perché poi no, dove va amico? Viene, dove no, va? No, dove va amico? Aspetta, vieni qua, porti tovaglia, muovete, porti tovaglia per ragazzo, muovete, porti tovaglia. Ragazzo, vieni qua, dove scappi amico? Dove vai? Porti amico, porti amica, ragazza, amica, amica, amico, l'amico dell'amico, il cugino, il mio figlio, e il magazzino è sempre pieno, che fa casino di Madonna, tu, tuo amico e l'altro. Prendi roba e butti in terra e non paghi. E non paghi e biezza di paparone, biadina, il tormento e il ghetto dove? Il ghetto finito, ho detto, una biezza di tipo, basta, finito. Tu vieni 9 mattina, mandi biezza con paparone e maiale, che a me non piace. Mancano 30 giorni alla fine del mondo. 30 giorni, un mese, capo, un mese alla fine del mondo. Allora, voi a casa cosa state facendo? Come state reagendo a questa notizia che ma manca un mese alla fine del così mondo? Così ci telefonano e ce lo magari dicono. Magari sì, ma no, sarebbe ora. A parte sarebbe... che da oggi non è più questione di arrivare alla fine del mese, ma di arrivare alla fine del mondo. Vabbè, ma secondo te il fatto che il 21 dicembre sia il solstizio d'inverno c'entra con la fine del mondo? Cioè è una non data lo so, precisa, non... l'unico astronomica? L'unico che potrebbe sapere qualcosa, Drago, è Giacobbo. Ho capito. Ma Giacobbo non è più tra noi. Beh, comunque manca solo un mese e io non noto grandi segni di questa fine del mondo, K, che si avvicina, no? C'è stato l'uragano Sandy in America, vabbè, a Cuba anche, qualche disastro qui nel centro Italia la scorsa settimana, però sono cose che succedono sempre a novembre, ma a dicembre. Ma cosa vuol dire? Vedrai poi il 21 dicembre. Ma tutto in una botta succede. Può darsi, no? Chi lo sa? No, perché se il mondo finisce con un bang, allora Eliot aveva torto. Ma Elliot Key, il drago di cartone. No, quello era Grisù, Elliot. Cosa dici? Ignorante, drago. Grisù è un draghetto disegnato dai Pagot. Beh. O Pagot, sì. Perché sono veneti, sì. Invece Elliot è un drago adulto della Disney. Ma sì, vabbè, ma Tito, tu sta zitto che non sei né drago né adulto. Devi dimostrare un'erudizione spropositata sui cartoni animati degli anni 70, cioè, parlavo di T.S. Eliot, il poeta, il premio Nobel. Allora lui aveva scritto dei versi sulla fine del mondo. Diceva: e così finisce il mondo, non con uno schianto, ma con un piagnisteo. Not with a bang, but a whimper. Capito? Quindi mi ero sempre fatto l'idea che ci fosse un graduale avvicinarsi alla fine e non un bang. Ah, come una specie di... una loffa. La loffa alla fine del mondo.